Già soffriva per me e per farci sento dire quella notte lungo il mare è venuta con te. Ora tu vieni a chiedere a me tua moglie dov'è. Dovete immaginarti che un giorno o l'altro avrei andata via da te. Hai soltanto sapendo che lei moriva per me. Poi hai comprato il suo corpo, non certo il suo corpo. Quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entra nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava sì da me in allenza.